carta mia. Ricordo il fieno e i tuoi cavalli di Normandia. Eravamo liberi. Lamenti di chitarre sospettate a torto, sospirate piano. E voi donne allo sguardo altero, Thank you.